Olimpia, miti e verità dello sport di Dario Ricci. Circa 400 invalidi di 22 nazioni rappresentanti i 5 continenti sono convenuti nella città eterna. Il 14 settembre, ricevuti dai rappresentanti dell'INEI, cominciano a giungere a Ciampino le squadre delle nazioni partecipanti. Roma, settembre 1960. I giochi di Livio Berruti, Wilma Rudolph e Cassius Clay si sono appena conclusi e iniziano le prime Paralimpiadi dell'era moderna. Una pagina storica per lo sport mondiale che lega l'Italia al Brasile, Roma a Rio de Janeiro, che in questi giorni ospita proprio le Paralimpiadi. Il villaggio olimpico, gentilmente concesso dal CONI, ai cui dirigenti va il nostro più caloroso ringraziamento, ha permesso di alloggiare in modo confortevole i 400 invalidi e i 200 accompagnatori. Sui pennoni che hanno visto sventolare le bandiere delle nazioni partecipanti alle 17esime Olimpiadi, garriscono al vento le bandiere dei 22 paesi che partecipano ai 9 giochi internazionali per paraplegici. Una storia nata nel secondo dopoguerra, quella paralimpica, come ricorda questa preziosa testimonianza audio-video contenuta insieme ad altra documentazione sul sito web memoriaparalimpica.it. I giochi internazionali per paraplegici furono ideati e realizzati dal dottor Ludwig Gutmann, direttore del Centro per Lesioni Spinali di Stoke Mandeville, Gran Bretagna, ed ebbero la prima edizione nel 1948. Parteciparono allora soltanto 26 paralizzati inglesi, vittime della Seconda Guerra Mondiale. Nel 1952 le gare, per l'adesione di numerose altre nazioni, divennero internazionali. Nel 1956 il Comitato Olimpico Internazionale diede il suo riconoscimento ufficiale ai giochi. Anche l'Italia trova allora il suo Gutmann. È il dottor Antonio Maglio che trasferisce i suoi insegnamenti nel centro paraplegici di Ostia, Villa Marina, inaugurato dall'INEIL nel 1957. Nel 1960, in concomitanza con le Olimpiadi, riesce appunto a portare i giochi di Stoke Mandeville a Roma, dando luogo alla prima Paralimpiade della storia. Protagonisti di quell'edizione proprio molti dei paraplegici ospiti a Villa Marina. Arnoldo Ruschioni, classe 1932, era stato relegato su una carrozzina da un incidente nell'officina di famiglia. Lo sport gli apre orizzonti sconosciuti e inattesi, come ricorda ancora oggi. Ringrazio anche lo sport, sai, che mi ha portato a questi livelli, che mi fa ancora io. E dopo, una volta acquisito, una volta fatto, non lo dimentico, se lo vuoi dimenticare, se no lo dimentichi. Ti aiuta a vivere, molto, molto, molto. Non trovi ostacoli, vai avanti da tutte le parti. C'era la provvisione di andare all'estero, di prendere l'aereo, di viaggiare, capito? Allora si faceva anche sport, ti impegnava così, dice io almeno vado a spasso, prendo l'aeroplano. Non ho mai preso l'aeroplano, la prima volta. Prendiamo l'aeroplano, andiamo all'estero. E niente, E si faceva, si andava. Oggi ormai anche lo sport paralimpico ha una dimensione professionistica, ma anche allora nessuno ti regalava niente, ricorda Ruschioni. Lo sport bisognava allenarsi per avere risultati, Non è che i risultati andavi lì e li prendevi, Non ti faceva vincere nessuno. No. Dovevi essere meglio allenato, dovevi impegnarti, dovevi essere proprio con tanta grinta, se no la medaglietta la prendevi di carta. I più bravi, i più allenati, quelli che avevano probabilità di vincere, gli altri rimanevano a casa. Chi non faceva sport, chi non si allenava, chi non dava risultati, non veniva fuori a fare le Olimpiadi, non gareggiava mica. Le gare dureranno 6 giorni. La prima giornata comprende scherma, sciabola individuale per uomini e fioretto per donne, torneo di biliardo, snooker e pallacanestro. Il primo incontro di sciabola individuale vede opposto al nostro Tedone un atleta australiano. L'incontro si risolve con la vittoria dell'italiano. Le italiane Toso e Scutti sono di fronte per la finale di fioretto. La vittoria di stretta misura sarà della Toso. Severe e puntuali le selezioni, splendida l'atmosfera che oggi, come allora, circondava le gare. Venivano anche dei professori ad allenarci. C'era un professore di scherma. c'era un professore di pallacanestro, c'era il professore dell'atletica. E diceva: questo è da portare fuori, questo è bravo, quello è somaro, lasciamo una parte. La gioventù, dove andavamo. La gioventù che ci veniva dietro, la gioventù che ci sta, eravamo giovani anche noi, ma la gioventù che ci veniva a vedere era una cosa straordinaria. Facevamo amicizie, poi ci portavano a mangiare, ci invitavano nelle case. Era bello quando non facevamo sport, l'accoglienza è sempre stata stupenda, meravigliosa. Non sempre poi si riusciva a portarla a casa, quella benedetta medaglia. Ci sono delle Olimpiadi che io sono andato in bianco, non ho portato a casa niente, però quando si prendeva qualche medaglia la soddisfazione era tanta. Una delle più belle, per esempio, che io ho vinto il primo posto al biliardo. Nell'ultima giornata sono in programma le gare di nuoto. Gli atleti si trasferiscono tutti nella magnifica piscina coperta del Foro Italico. Il numero delle gare in programma e la larga partecipazione di atleti di tutte le nazioni hanno dato vita a una manifestazione di grande interesse, sia dal punto di vista tecnico che sportivo. In una delle prime gare in programma, il nostro Iannucci conquista per l'Italia una medaglia d'oro nei 25 metri rana classe C. A Roma 1960, però, Ruschioni è protagonista e fa bottino di metalli preziosi. Nel 60 è stata la medaglia d'oro al ping pong, poi è stata d'argento, è stata la scherma, è terza e di bronzo al nuoto. Perché quella volta non era una selezione, ti specializzavi su uno sport, facevano un po' tutti gli sport. Eravamo le prime gare, le prime case, ci facevano impegnare un po' in tutti gli sport. Allora su uno sport riuscivi così, sull'altro magari riuscivi a vincere, ma io ho sempre vinto. Non dico i primi posti, ma sempre la seconda, la terza, al nuovo beccavo una medaglia, l'altro beccavo una medaglia, alla scherma vincevo. Sempre i risultati c'erano. Ma come ripeto, ti dovevi allenare, allenare tanto, ma noi ci divertivamo a allenarci. E anche il bilancio dell'intera squadra azzurra è straordinario. La consegna della Lupa, premio per la nazione prima classificata ai giochi, è stata salutata da vivissimi applausi all'indirizzo della squadra italiana, che in questi noni giochi ha conquistato 32 medaglie d'oro, 32 d'argento e 25 di bronzo. Ma la medaglia più bella era sempre comunque l'applauso della gente, dei tifosi. Il pubblico che veniva, tanto. Le soddisfazioni erano enormi, non si può capire se non si sta lì sopra. Erano emozioni pure, no? Qualche volta anche qualche lacrimuccia usciva. Era bello, era il compenso di tutte le fatiche, le soddisfazioni. Per i paratleti di Roma 1960, poi, alla fine delle competizioni arrivò anche l'abbraccio e l'affettuoso messaggio di Giovanni XXIII. Il pontefice ha rivolto parole paterne di conforto e di incitamento. Diletti figli, voi avete dato un grande esempio, che noi amiamo rilevare perché può essere utile a tutti. Lungi dal lasciarvi abbattere dalla prova, voi la dominate. E con sereno ottimismo affrontate cimenti apparentemente riservati ai soli uomini validi. Momenti straordinari, la cui eco per Ruschioni si è propagata fino ai Giochi Paralimpici Invernali di Torino 2006. Nel 2006 mi hanno contattato l'organizzazione di Torino che stavano organizzando i Giochi Invernali per disabili. Mi hanno dato l'incarico di fare il tedoforo. E allora ho fatto il tedoforo a Torino e poi mi hanno, una volta fatto il tedoforo, io ho acceso il tripode, ho acceso la fiaccola importante, l'ho accesa io e una bambina cieca, io e lei insieme abbiamo acceso il tripode, il braciere che iniziava le Olimpiadi invernali, la fiamma olimpica. Qualche istante di pausa, ora poi da Roma 1960 ci sposteremo a Rio 2016 per raccontarvi il presente e futuro delle Paralimpiadi. Buongiorno! 24 mattino di Alessandro Milan. ma dove eravate finiti? Il Parlamento è aperto ogni giorno dalle 6.30, caffè, brioche e giudizi in libertà. E alle 7.20 vi leggo i giornali gratis. Alessandro Milan, il boss dell'informazione. Oh, vi aspetto, dal lunedì al venerdì. E siccome la carta costa, scopriremo anche l'articolo più inutile del giorno. Ma chi se ne frega! Oscar, mi aiuti? Eccomi! No, stai attento, prendila di lì! Ma cosa? È scivolosa! Guarda che esplode questa notizia, guarda che è una bomba! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. Notizie esplosive. E schiene dritte. Attenti a noi due, ogni giorno dalle 8.20 su Radio 24. Con Alessandro Milan e Oscar Giannino. L'informazione che non ha paura. Semmai ne fa. Vi aspettiamo a Made in Malga, evento nazionale dei formaggi di montagna. Asiago, 8-11 settembre. Vi presenta... Vuoi diventare autore, creatore di format, redattore e conoscere i segreti del web, della pubblicità e del marketing radiofonico? Sintonizzati e frequenta il Master in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. A tua disposizione i massimi esperti del settore radio per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it e rds.it. Olimpia, miti e verità dello sport. Voi siete l'Italia. La bandiera che ho consegnato a Martina Caironi è un simbolo che ci unisce. In questi giorni ciascuno di voi sarà la bandiera del nostro paese. Vi aspetto a Roma per festeggiare la vostra partecipazione, ma soprattutto vi aspetto perché l'Italia vi è riconoscente e perché voi dopo i giochi continuerete ad essere testimoni di tenacia, di solidarietà, di umanità, trasmettendo questi valori a tutta la nostra società. Le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella hanno accompagnato la partenza della spedizione azzurra alle Paralimpiadi di Rio 2016 e già fanno intravedere quella che potrà essere l'eredità di questa esperienza paralimpica. Passato, presente e futuro delle Paralimpiadi, quindi al centro di questa puntata di Olimpia, e ne parliamo col massimo esperto italiano e non solo di Paralimpiadi, oltre che collega e amico, Claudio Arrigoni, che i giochi paralimpici li sta raccontando da Rio de Janeiro su Gazzetta dello Sport, Corriere della Sera e Rai. Ben ritrovato Claudio. Allora, abbiamo sentito quanto è forte il legame delle Paralimpiadi con l'Italia e Roma 1960 in particolare. No, assolutamente, una tappa fondamentale direi, non importante, perché quella è considerata la prima grande Paralimpiade, la prima vera Paralimpiade. È la prima volta che nello stesso luogo dove si svolgevano le Olimpiadi poi si sono svolte le Paralimpiadi, i giochi per atleti con disabilità. Allora erano 400, quindi un decimo di quanti, anzi meno di un decimo di quanti sono oggi in Brasile per partecipare alla Paralimpiade di Rio. Però erano 400 che fondarono un movimento. E poi bisogna aspettare, pensate, il 1988 perché si svolgesse una nuova edizione dei giochi negli stessi luoghi, addirittura poi da Seul 88, proprio negli stessi impianti in cui si svolgevano le Olimpiadi. Però Roma è la pietra miliare. Torniamo però all'attualità. Quanto pesa l'assenza per lo scandalo doping della Russia dalle Paralimpiadi di Rio 2016? È una grande potenza dello sport paralimpico. La Russia, pensiamo solo questo, che a Londra fu seconda nel medagliere dietro la Cina. A Sochi fu naturalmente prima nel medagliere, 30 medaglie, la seconda la Germania ne aveva 9, 30 medaglie d'oro naturalmente stiamo parlando, la Germania ne aveva 9. La Russia è una potenza che è arrivata tardi allo sport paralimpico, se pensiamo che alla fine del secolo scorso, quando ancora non partecipava alle Olimpiadi prima di Seul 88, ci fu un membro del CIO che chiese a un membro del Politburo, era in visita a Mosca prima delle Olimpiadi, e gli disse: ma scusate, ma come mai voi non avete atleti con disabilità? E questo membro del Politburo lo guardò e disse: noi non abbiamo disabilità. Ecco, questa era la mentalità di una volta, poi si è rifatta, la Russia è diventata una grandissima potenza, quindi sicuramente sono Olimpiadi un po' monche da questo punto di vista. Ti sembra legittima alla fine questa esclusione? L'IPC, il Comitato Paralimpico Internazionale, ha scavalcato la decisione del CIO, che aveva lasciato un po' mano libera alle federazioni internazionali, mentre l'IPC ha detto no, chiudo, perché io voglio dare un segnale fortissimo contro il doping. Questa è l'idea di Phil Craven, il presidente di IPC. Il dubbio qual è? È che la Paralimpiade sì, una grandissima vetrina sportiva, ma è, secondo me, prima di tutto un grandissimo veicolo di promozione sociale. E molto spesso sono gli atleti paralimpici che danno la spinta perché vi siano dei cambiamenti anche all'interno della società o dei cambiamenti di mentalità nei confronti della disabilità. Oggi noi dobbiamo entrare nella cultura dell'abilità, non più in quella della disabilità, quindi fare in modo di vedere le risorse in ognuno nella sua condizione. Lo sport e l'arte sono due degli ambiti in cui questo avviene. Ecco, troncare un pochino la possibilità a tanti atleti paralimpici di mettersi in mostra davanti alle tante persone con disabilità che magari hanno difficoltà proprio dal punto di vista sociale, forse questo qualche dubbio lo pone sulla decisione di IPC. Vero è però, in tutta onestà, che il doping non è certo una novità a livello paralimpico. Sì, assolutamente, è una piaga in tono minore rispetto a quello che è lo sport olimpico, però è una piaga che c'è da sempre, anche, tu dici, con tecniche raffinate, ma anche con tecniche diverse rispetto a quello che riguarda l'Olimpiade. Questa è una piccola particolarità dello sport paralimpico, in particolare degli atleti che sono paraplegici e tetraplegici, cioè che in alcune parti del corpo non hanno sensibilità. Allora, cosa facevano in passato? E alcuni dicono che accada ancora oggi, anche se oggi viene controllato abbastanza questa pratica. Si chiama boosting ed è sostanzialmente un farsi male. Perché? Perché con il dolore aumenta la gettata cardiaca e quindi aumenta l'ossigenazione nel sangue e questo permette migliori prestazioni. Ma farsi male voleva dire farsi male in maniera enorme, cioè tipo infilarsi dei chiodi piuttosto che mettersi scariche elettriche, piuttosto che stritolare lo scroto, cioè cose di questo, chiudere il catetere per ingrossare la vescica, quindi robe veramente molto dolorose per chi ha sensibilità, ma che per atleti che non hanno sensibilità, per persone che non hanno sensibilità, questa naturalmente non veniva percepita. Ecco, il boosting era una pratica dopante che poi è stata per fortuna considerata appunto pratica dopante anche del Comitato Paralimpico, che è stata secondo molti abbastanza debellata, però c'era in passato. Quindi come vediamo, tutto lo sport poi ha dentro dei disvalori, anche lo sport paralimpico. Certamente misura minore di quello olimpico. Torniamo al campo di gara. A Rio 2016 ci sono anche nuove discipline, anche nella Paralimpiade, vero? Il triathlon, la canoa sono due di queste discipline. A Tokyo se ne aggiungeranno altre. È sempre in evoluzione lo sport paralimpico, perché è uno sport giovane, è uno sport che sostanzialmente nasce dopo la Seconda Guerra Mondiale a livello abbastanza strutturale, no? un po' in Inghilterra, Stoke Mandeville, in questo centro di riabilitazione, grazie al dottor Gutmann, e un po' negli Stati Uniti, dove tornavano dalla guerra molte persone e soldati con disabilità e quindi iniziavano a giocare per esempio il basket in carrozzina. Insomma, è uno sport che nasce dopo la Seconda Guerra Mondiale a livello strutturale, però che cresce soprattutto nell'ultimo ventennio del secolo scorso, quindi sport veramente ancora che deve fare dei passi da gigante, e li sta facendo, bisogna dire. È anche per questo che discipline nuove vengono piano piano inserite nella Paralimpiade, proprio per mostrare che comunque non c'è nessuno sport che può essere precluso a una persona con disabilità. Ecco, ti chiedo, come immagini ora il futuro delle Paralimpiadi? A breve termine sicuramente si andrà avanti con quella che è la struttura attuale dell'Olimpiade Paralimpiade, quindi Olimpiadi prima e Paralimpiadi dopo. Molti non sanno che le Olimpiadi e Paralimpiadi sono un contratto che viene fatto fra il CIO, il Comitato Internazionale Olimpico, e l'IPC, il Comitato Internazionale Paralimpico. È un contratto in cui si dice ci mettiamo insieme e prima facciamo le Olimpiadi e poi le Paralimpiadi e organizziamo insieme questi eventi. Questo contratto scade credo che l'ultimo sarà nel 2028. Poi bisognerà vedere, alcuni dicono uniamo i due eventi, io credo che sia abbastanza impossibile dal punto di vista logistico, ma chissà cosa succede dopo quegli anni. Ma soprattutto io credo che la divisione fra Olimpiadi e Paralimpiadi abbia una necessità, che è quella di dare voce e visibilità anche a quegli atleti con disabilità più grave che probabilmente se fossero inseriti in un grande carrozzone olimpico non ne avrebbero. Quindi io credo che oggi la struttura attuale sia quella che più rappresenta il mondo sportivo olimpico e paralimpico insieme. Magari si andrà avanti in questa direzione, però credo che molte considerazioni e riflessioni debbano venire fatte prima di arrivarci. Claudio Arrigoni, grazie per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport, e buona continuazione con le Paralimpiadi di Rio 2016. Una grande Paralimpiade a Rio, grazie a voi. Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet radio24.it.